Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Chi ha seguito ieri la nostra trasmissione ha sentito la storia di un radioascoltatore, Antonio Genovese, diversamente abile, per la precisione paraplegico. Io non capisco perché queste persone non si possano chiamare con il loro nome, e io voglio farlo perché è paraplegico, così come io sono un giornalista e il tecnico del suono è un tecnico del suono, un paraplegico, una persona come noi, soltanto che ha delle limitazioni che purtroppo a volte la legge aiuta, contribuisce a rendere ancora più complesse. Antonio Genovese ha un sogno, vorrebbe indossare una divisa da carabiniere. Dice anche, da carabiniere non è possibile, benissimo da poliziotto. Insomma, il suo sogno è indossare una divisa. Una volta, ricorderete, si diceva che le donne non avrebbero mai indossato una divisa. Oggi la indossano, credo che la indossino anche con onore, tanto che sono state impegnate anche in missioni all'estero. Ebbene, io dico ai nostri radioascoltatori, perché un domani i disabili non possono indossare una divisa da carabiniere? Francamente, questo è un invito che io porgo al legislatore, perché come abbiamo sentito raccontarci ieri dal generale di brigata Mario De Carlo, purtroppo la legge è questa: non ci sono spazi di manovra per l'assunzione all'interno dell'arma dei carabinieri. Ma noi vogliamo continuarlo quel discorso anche con nuovi ospiti, ma intanto ripartiamo da Antonio Genovese. Buongiorno Genovese. Buongiorno. E ripartiamo dal generale Mario De Carlo, che è il capo del primo reparto reclutamento della Direzione Generale del Personale Militare del Ministero della Difesa. Buongiorno generale. Buongiorno dottor Galullo. Allora, Genovese, ieri abbiamo sentito, mi pare, una versione che è la sua, molto corretta, ma anche la versione altrettanto corretta e con dei paletti che sono stati posti dal legislatore da parte dell'Arma dei Carabinieri. Le chiedo, Genovese, vuole fare qualche domanda al generale De Carlo per approfondire questa vicenda che, lo dico appassionatamente, mi sta coinvolgendo, perché credo che certe barriere dovrebbero cadere, ma la colpa, lo ripeto ancora una volta, è di chi fa le leggi, che dovrebbe vedere e capire come cambia la nostra popolazione e il nostro impegno civile. Prego Genovese. Questa legge appunto del 68 e del 99, ho visto che comunque nei bandi di concorso dell'arma viene inserita però prettamente l'articolo 18. Ecco, ricordiamo che cos'è questa legge del 99, la numero 68, è quello che prevede, che cosa, lo dica lei? L'inserimento dei disabili nel mondo del lavoro. Benissimo. E nell'articolo 18, che viene citato appunto come comma all'interno dei bandi di concorso dell'arma, questo articolo è a favore degli orfani di guerra o di servizio, che comunque vengono considerati all'interno di questa legge e quindi, tra virgolette, come diversamente abili, perché la legge è per i diversamente abili. Quindi io mi chiedo, se per gli orfani o comunque di guerra o di servizio e quindi comunque disabili viene applicata, perché, visto che comunque l'articolo 3, come citavo appunto ieri, parlava di prettamente ambito amministrativo, sono sempre disabili, non venga inserito? C'è come una sorta di differenza che non riesco bene a capire. Certo, certo. Quel tipo di disabile e l'altro. Ecco, allora io, premettendo ancora una volta che purtroppo queste sono domande che andrebbero rivolte al legislatore. Il legislatore è come lo Stato, una parola che vuol dire tutto e non vuol dire niente, no? Ma in buona sostanza vuol dire coloro i quali si peritano di fare leggi in Parlamento, e vediamo che po' di leggi sono in grado di fare. Non mi riferisco certamente a questa. Premettendo questa, chiedo al generale Mario De Carlo, come commenta questa distinzione tra orfani di guerra e diversamente abili? Non sono affatto sicuro, io adesso non ho presente l'articolo 18 della legge, però non sono affatto sicuro che si riferisca ai disabili. E probabilmente si riferisce soltanto alla seconda parte, alle quote di riserva. Ecco, alle quote di riserva, che come sappiamo sono, diciamo così, appunto quelle percentuali obbligatorie per legge di persone diversamente abili che debbono essere inserite nel mondo del lavoro. È non così. Parla di... nomere di diritto al lavoro dei disabili, il testo generale della certo, norma. Certo. Però io adesso non sono affatto sicuro che l'articolo 18 che sta citando il signor Antonio, sia riferito come quote anche per i disabili, per cui mi riservo di risponderle successivamente. Ma io di questo la ringrazio, anche perché, come ho detto ieri, noi continueremo a seguire questa vicenda, perché mi sembra, lo devo dire francamente, una vicenda di civiltà. Non trovo corretto che chi è diversamente abile non possa aver accesso alle Forze Armate. Le chiedo una cosa, generale De Carlo, che mi viene in mente in questo momento: ma se un carabiniere, e purtroppo sappiamo che succede, diventa diversamente abile successivamente al suo arruolamento, quindi all'ingresso nell'arma dei carabinieri, che cosa accade delle sue funzioni? Allora, la norma regola questa fattispecie è il decreto ministeriale del 2002, il 18 aprile del 2002, emanato ai sensi della legge 226 del 99, della legge 267, scusami, correggo. Prego. Del 1999. Quando un militare perde l'idoneità al servizio militare incondizionato, può a domanda transitare nelle aree funzionali del personale civile della difesa, sempre che l'infermità accertata consenta ovviamente l'ulteriore impiego. Ecco, quindi transita, comunque, diciamo, nel militare, personale civile, viene in buona sostanza smilitarizzato ed entra nel ruolo civile. Non è più militare. Esattamente. Esatto, preferisco questo termine. Benissimo, io la ringrazio, generale De Carlo, del suo intervento. Proseguiremo con altre voci per approfondire questa vicenda del reclutamento possibile o meno dei diversamente abili nelle Forze Armate. Grazie, generale De Carlo, per il suo intervento. Buongiorno, dottor Galullo. Bene, abbiamo collegato ora con noi un nuovo ospite. Vogliamo sentire da questo ospite come la pensa sul sogno infranto del nostro amico radioascoltatore che vorrebbe fare il carabiniere. Abbiamo già sentito diverse opinioni, abbiamo ascoltato lo stesso radioascoltatore e abbiamo ascoltato la voce ufficiale delle forze armate, dei carabinieri. Il nostro nuovo ospite, al quale do il buongiorno e il benvenuto, è Giovanni Pagano, che è presidente nazionale dell'Associazione, appunto, Nazionale Mutilati e Invalidi Civili. Buongiorno Pagano. Buongiorno a tutti. Allora, lei ha visto, ha preso visione anche lei con noi della lettera di questo radioascoltatore. Insomma, cosa ne pensa di questo sogno infranto tra leggi, leggine e mille vincoli burocratici? Il sogno dell'amico Antonio, se mi posso permettere. Prego. Il termine amico Antonio, è talmente alto e positivo che ci fa veramente riflettere su quanta capacità e su quanta voglia di emergere e di rendersi utile alla società, diciamo, il progetto di Antonio. Purtroppo, giustamente come lei ha introdotto, questo sogno si infrange contro una realtà che affonda le sue radici in centinaia di anni or sono, quando l'arma dei carabinieri si è costituita. Oggi purtroppo far parte dei carabinieri ci si sottopone ad una selezione che, al di là di altri requisiti che non fanno parte certo del mondo della disabilità, questi requisiti debbono avere una idoneità fisica incondizionata a svolgere tutto ciò che i carabinieri oggi svolgono. Ecco, se non fosse stato per questa lettera che ci è giunta in redazione, anzi colgo ancora una volta l'occasione per dare la nostra mail per segnalare casi, un abuso al giorno @radio24.it. Ebbene, dicevo, se non fosse stato per questa lettera, io personalmente sarei rimasto nell'ignoranza. Del resto i giornalisti si cibano di ignoranza, cioè non sapevo che queste persone non potessero entrare nei carabinieri. Chiedo invece a lei, quante persone si sono rivolte alla sua associazione con lo stesso sogno infranto? Guarda, devo essere sincero, perché non è il caso di nascondersi. Certo. Questo è un caso limite ed unico, perché conoscendo quali sono i filtri che un aspirante carabiniere deve superare, naturalmente difficilmente si può avere la fantasia bellissima, brillante di Antonio. Si parla anche di una forma di discriminazione nel caso, anche perché poi il signor Antonio in alcune circostanze fa riferimento alla legge 68. Esattamente, del 99. Noi siamo d'accordissimo per quanto riguarda la legge 68, ne abbiamo sempre avvertito tutte le carenze e forse qualche volta anche qualche abuso che noi abbiamo combattuto e continueremo a combattere, però per poter usufruire della legge 68 bisogna iscriversi in un apposito elenco provinciale che prima era tenuto dall'ufficio provinciale del lavoro e attualmente dalle amministrazioni provinciali. Diversamente non si può sperare in un avviamento al lavoro a qualsiasi titolo se non si è inserito in queste graduatorie provinciali. Ecco, io la ringrazio per il suo intervento perché è stato chiarissimo. Io però prometto ai nostri radioascoltatori che domani torneremo con la terza ed ultima puntata su questo tema e avremo ancora ospite con noi, insieme ad altri interlocutori, ancora Giovanni Pagano. Quindi grazie ai nostri ospiti, in regia Filippo Aureggi, in studio Laura Faggin. Vi ricordo che domani ci risentiremo, ma vi do appuntamento anche sul mio blog, sull'home page del Sole 24 Ore, http://robertogalullo.blog.ilsole24ore.com, un'altra forma per dialogare tra noi. Da Roberto Galullo una buona giornata a tutti.